Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, ho seguito sui giornali negli ultimi giorni la polemica all'interno della maggioranza con le prese di distanza di Fini dalle scelte che sta compiendo Berlusconi. Al di là del merito della polemica, mi ha sorpreso come si sia parlato subito di elezioni anticipate, come ha affermato un'alta carica dello Stato quale il Presidente del Senato. Al di là del fatto che la facoltà di sciogliere le Camere spetta unicamente al Presidente della Repubblica, si può ritenere, ammesso che Fini si stacchi dal Popolo delle Libertà, che non esista altra possibilità di formare un governo? Giordano. Caro Giordano, vi sono fondati motivi per ritenere che l'ipotesi delle elezioni anticipate sia solo una minaccia retorica e non una vera prospettiva politica a breve termine. Gli italiani hanno in gran parte votato per le elezioni regionali a fine marzo e l'esito del voto è stato chiaramente una riconferma della fiducia verso l'attuale maggioranza guidata da Silvio Berlusconi. Ma ci si può chiedere che cosa potrebbe succedere se lo stesso Berlusconi decidesse di rassegnare le dimissioni di fronte a una divisione interna del suo partito. È ragionevole credere che prima di sciogliere le Camere, il presidente Napolitano cercherà tutte le strade possibili per ridare un governo al paese. In primo luogo, incaricando di nuovo lo stesso Berlusconi per verificare la possibilità di un nuovo governo, magari contando sul fatto che quelli che potremmo chiamare gli amici di Fini difficilmente voterebbero contro. In seconda ipotesi, non è escluso che il Presidente della Repubblica possa tentare la strada che seguì Scalfaro una prima volta nel 93 con l'incarico a Ciampi dopo le dimissioni del governo Amato e poi nel gennaio del 95, quando dopo le dimissioni del primo governo Berlusconi, incaricò Lamberto Dini di formare un governo tecnico senza una maggioranza predefinita. In questa fase, tuttavia, queste soluzioni appaiono più appartenenti al campo della fantapolitica che della realtà. L'altra sera, l'intervento della vostra ascoltatrice, la signora Francesca da Varese, che dichiarava che nella sua vita non voleva essere contaminata da nulla che ruotasse attorno a Berlusconi, dalle televisioni ai giornali alle assicurazioni, eccetera, mi ha davvero indignata. Voto da sempre, e non esercito un mio diritto di scelta, ma opto piuttosto per il meno peggio, almeno secondo il mio personalissimo giudizio. Quando però sento parlare o sproloquiare persone che in nome di un'ottusità beghina di pseudo-sinistra abbracciano crociate tanto idiote e autolesioniste, beh, mi viene voglia che il signor Berlusconi, al quale non penso darò mai la mia preferenza, stia al potere per eoni. Lo meritiamo. Tutto qui. Miria. Egregio direttore, ho 23 anni e tutta la vita davanti, ma tutto il tempo non basterà perché questo paese mi faccia ricredere. Ho già fatto 3 stage in 3 diverse aziende, fino a che lo scorso 1 aprile ho avuto, a mo' di presa in giro, un contratto per un mese da parte di una grande multinazionale dopo 6 mesi di stage. La situazione economica non ci permette di assumerla. Sulla base di un ragionamento puramente economico da fuorisede quale sono, ho accettato. Tuttavia non è di questo che voglio parlare, preferisco sorvolare sulle politiche di assunzione, sul degrado formativo e umano delle aziende di oggi, sull'indecenza dei meccanismi alla base delle decisioni, sulla serietà e onestà degli ambienti per il quale ho lavorato. Non le scrivo per lamentarmi di questo, e sono anzi contraria alle lamentele e fini a se stesse. Mi sono laureata in economia quasi 2 anni fa, i miei sogni? Tanti. Dal vendere le mie tele in riva al Tamigi, al partire per l'Australia, fino all'ultimo, il più breve, il più apparentemente realizzabile. La Regione Lombardia erogherà dei contributi a fondo perduto per lo start-up di nuove imprese, meglio se giovanili, meglio se a componente femminile. La notizia è stata come un colpo al cuore, come rinascere a nuova vita. Mi sentivo come tutti dovremmo sentirci, fautori del nostro destino, vulcani di idee, sognatori, inventori. Da subito ho cercato locali commerciali, potenziali fornitori, ho stilato un piano di marketing e uno di comunicazione, ho impostato sia il budget preventivo che il business plan. Ho addirittura disegnato il logo del particolare retail store che avevo in mente. Già pensavo a quando, terminato il mio ridicolo contratto di un mese, avrei iniziato a costruire davvero il mio futuro. Qual è il problema? Si chiederà lei. Possono usufruire dei contributi coloro che alla data di pubblicazione del bando risultano inoccupati, disoccupati. Ma cosa vuol dire alla data di pubblicazione del bando? Come può una data rappresentare la situazione occupazionale di una persona? Mi sarei aspettata chi alla data di pubblicazione del bando ha non più di X giorni lavorativi cumulati. Io sarei occupata, dato che il 1° aprile firmo un contratto che 30 giorni dopo si intende risolto senza preavviso tra le parti? È possibile che le mie idee non valgano più di un cavillo burocratico? Quanto valgono in questo paese il mio entusiasmo e la mia voglia di fare? Quanto valore aggiunto viene sprecato quando non si sostengono i giovani e le loro capacità? Quando l'unica cosa che si riesce a fare è rinchiuderli nel circolo vizioso degli stagi infiniti, utili spesso solo alle aziende, sempre meno propense a trasmettere contenuti di valore, con l'inevitabile conseguenza di allontanarci dagli ambienti lavorativi di cui non ci sentiamo mai parte, dai nostri sogni e spesso dal nostro paese. Mi dispiace per me, ma il tutto mi fa tanta tristezza. Auguro tanta buona fortuna ai nuovi imprenditori che potranno realizzare i loro sogni, o meglio, ai vecchi soliti personaggi che con un prestanome usufruiranno dei contributi a fondo perduto. Federica Bergamo. Vorrei esprimere la mia opinione sul caso della mensa scolastica di Adro. Io ho vissuto e lavorato per anni in un comune confinante con Adro. Conosco bene la zona e la realtà sociale di quell'area territoriale. Trovo sia molto spiacevole che un sindaco non faccia il possibile per promuovere un'immagine corretta e quantomeno realistica della comunità che amministra. I cittadini e gli imprenditori di Adro non meritano di essere trascinati nel pressapochismo che li vuole etichettati come razzisti. Adro è una comunità operosa, ricca e generosa. I sindaci dispongono di meravigliosi strumenti amministrativi come i regolamenti, da utilizzare anche per evitare che accadano fatti simili. Non so se ad Adro esista uno strumento chiamato regolamento per l'erogazione del servizio di mensa scolastica, ma sono certa che il sindaco avrebbe dovuto utilizzarlo prima di trascinare la comunità di cui è il rappresentante in una schermaglia tanto bieca. L'imprenditore benefattore ha dimostrato che ad Adro ci sono persone che sanno donare. Il tentativo del sindaco di abbassare, anche di fronte ad un atto di magnanimità, il livello del dibattito a quello della politica di bassa lega, tirando in ballo l'eventuale sostegno del benefattore alla minoranza, credo sia la conferma dell'assoluta incapacità di chi amministra Adro di operare oggettivamente e con buon senso. Ma forse nella vicenda ciò che manca è proprio il buon senso, che potrebbe essere un valido ausilio agli amministratori che vogliono essere tali. Ho letto la lettera del benefattore e mi sembra scritta con la passione di chi della politica non ha mai avuto bisogno e non sa che farsene. Che si tratti di un uomo in via di estinzione? Laura. Sembra proprio che il mondo si divida in buoni e cattivi. Il sindaco cattivo, un nuovo Erode che lascia i bambini digiuni e il benefattore che paga per farli mangiare. Sembra così facile giudicarli. E certamente i bambini sono tutti uguali. Sono i genitori che sono molto diversi. Ci sono quelli che fanno molti sacrifici per dare dignità ai figli e non dare loro motivo di sentirsi in difficoltà. E ci sono quelli che pretendono che siano gli altri ad occuparsene. Credo che per le famiglie veramente senza possibilità ci siano le esenzioni del buono pasto a seconda del reddito, chiaramente dietro la presentazione di una certa documentazione, in assenza della quale nulla è automatico. Il fatto che ci siano di mezzo i bambini non esonera i genitori a rispettare le regole. Anche al cinema non li farebbero entrare senza pagare il biglietto, neppure al museo, in piscina o in aereo o a Gardaland. Proprio perché i bambini devono essere trattati tutti allo stesso modo, tutti i genitori devono comportarsi allo stesso modo. Si parla tanto di lotta all'evasione, e allora bisogna pretendere anche i pagamenti delle piccole quote, e non si deve sottovalutare il rispetto delle regole, altrimenti si finirà per giustificare tutto il resto. Quei genitori non devono dimenticarsi che a ogni diritto corrisponde un dovere, che piaccia o no. Giulia. Qualche sera fa in TV ho sentito dire da un professore universitario che in Italia ci sono circa 2000 tipi di tasse, ma il 96% del gettito generale viene solo da 16 leggi. Lo Stato, per riscuotere il rimanente 4%, impiega ingenti risorse. Allora non sarebbe meglio fregarsene di quel 4% e concentrarsi sul rimanente, che è più importante? Mi sembra che in questo modo si lotterebbe più efficacemente contro l'evasione fiscale, impiegando il personale e i mezzi in maniera più intelligente. Spesso queste notizie passano senza che nessuno se ne accorga. Spesso le cose sono più semplici di quel che sembra. Perché poi, alla fine, tutta la questione del malessere economico della nazione sta nel fatto che il sistema fiscale è profondamente ingiusto. In Italia basterebbe spostare circa 140 miliardi di euro, che sono poi l'ammontare dell'evasione fiscale, dai ceti più ricchi, che spesso non sono più ricchi perché più bravi, verso i ceti meno abbienti, e tutto andrebbe a posto. Si potrebbe obiettare che dopo un po' di tempo si ritornerebbe alla stessa situazione di prima, i soliti ricchi da una parte e i morti di fame dall'altra. Il fisco, per essere corretto, deve agire come si comportano i vasi comunicanti, mai allo stesso livello, ma con la tendenza continua a portare acqua dal livello più alto a quello più basso. Lettera firmata. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.